Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti. Uno, nessuno, 100.000 di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati perché oggi è lunedì e si apre la quarta settimana decisiva per la riforma elettorale. Vero? Che anche voi ci credete che questa possa essere quella decisiva? Abbiamo tempo e diamo tempo anche fino a sabato inoltrato ai parlamentari, onorevoli e senatori, per fare la riforma elettorale. Ci siamo con voi, c'è Carmelo Lauricella in regia. Fa così perché Anacleto non lo considera nella sua presigla e quindi si deve dare un po' dei pat pat sulle spalle. Bravo. Insieme a te c'è la redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Lorenzo Nespoli torna con noi dopo 3 settimane allo sport, è tornato devastato, raccolto con i cucchiaini. Ci vorrebbe un applauso anche per lui, per il ritorno. Vai, Lorenzo Nespoli, vai. Carmelo? Non fai l'applauso a Lorenzo Nespoli, sei veramente micragnoso, sei veramente egoista, sei poco empatico. Allora, ci siamo, 800 24 00 24. Dico subito, questo è il numero per tutti, ma cari pendolari d'Italia, unitevi, come diceva quel tale. No, non era proprio pendolari d'Italia, però vorrei oggi fare un appello proprio ai pendolari che hanno preso i treni, che hanno preso gli autobus, i mezzi di locomozione, le metropolitane. Come va? Com'era a Movida questa mattina sui mezzi pubblici? 349-238-6666. Vai Carmelo. It will not be easy and it will not be easy. Gira questa battuta di Osho meravigliosa col Premier Conte in foto. Preparate i balconi che vi ho stampato i testi delle canzoni. No, in realtà non si arriverà a quello, non si arriverà al lockdown, anche perché sarebbe una follia arrivare al lockdown con i numeri, con le statistiche, con il livello di letalità che c'è oggi rispetto purtroppo alla situazione tragica di marzo. Però siete pronti? Oggi c'è il nuovo DPCM, io ho scritto privatamente alla collega e amica Fiorenza Sarzanini, ho detto: ma scusa, ma le partite di basket di mio figlio in società sono considerate attività amatoriale? Mi ha risposto: eh sì. E quindi, caro Mattia, anche se sei a scuola, te lo dico, ciaone al basket, ciaone al basket. Vabbè, ma tanto questi bambini rinchiudiamoli in casa a PlayStation a rincoglionire e poi cresceranno bene. Ciaone al basket. Quasi quasi manco ti mando gli allenamenti di oggi. Che ci vai a fare se da domani è tutto chiuso? Ragazzi, dunque, riducono la quarantena a 10 giorni, adesso ci vorrà un solo tampone negativo per essere considerato fuori dal coronavirus dopo la positività. Queste sono le notizie un po' più, le maglie un po' più allentate, per il resto no. Per il resto c'è anche questa storia delle feste private, le feste in famiglia. Le feste in famiglia è una cosa abbastanza incredibile. Oggi leggevo sui giornali, chissà come si può controllare. Comunque sentiamo il ministro Speranza ieri da Fazio. quando ciascuno di noi incontra uno sconosciuto, ha un sentimento di timore, di paura, e quindi resta a una distanza significativa e indossa la mascherina. Quando invece, purtroppo, incontriamo persone con cui abbiamo confidenza, amicizia o anche relazioni familiari, tendiamo ad abbassare la guardia. Ma non puoi avere un protocollo per una festa che viene fatta in una casa privata, ed è evidente che lì c'è un divieto che scatta. Su questo Speranza ha ragione, cioè sulla prima parte. Quando si incontra uno sconosciuto, lo sconosciuto è portatore di, oddio, subito mascherina. Appena si incontra uno zio, zio bello, vieni qua, cioè, perché non si sa perché lo zio non potrebbe portare il coronavirus, mentre lo sconosciuto per strada sì. È la parte successiva che mi inquieta. Le feste private in casa, siccome non si può fare un protocollo, è giusto, come fai a fare un protocollo quando uno tiene qua? Quando Carmelo Lauricella invita le sue 30 amiche, tutte donne, a casa sua per una festa, come facciamo a mettere un protocollo a casa di Carmelo? Quindi cosa si fa? Feste vietate a casa. Io ho scritto oggi su Facebook che mi ricorda la vecchia legge dell'Unione Sovietica, no? Quando dicevano più di due non ci si può riunire, era riunione sediziosa, Bolshevuk Nielsia Sabirazza. Ecco, più di due non ci si può riunire, festa privata vietata. Comunque io voglio fare un appello a tutti i pendolari che oggi hanno preso treni, metropolitane. Scrivetemi, chiamateci all'800 24 00 24 per dire come va, metropolitane, autobus. No, perché tutti a dire no alla movida, no agli assembramenti nei locali, no a questo, chiusure di qua, chiusure di là, passeggiare con la mascherina. Invece della movida inconsapevole a cui sono costretti i pendolari, chi risponde della movida non voluta che ogni giorno alle 7 pigiati come sardine in alcuni casi devono affrontare? Di quella chi risponde, di quella movida non richiesta? Chiamateci, raccontatevi la vostra movida non voluta, se l'avete affrontata al mattino, sulla linea dei pendolari, sulle linee del treno, sulle linee degli autobus. Ci interessa. 800 24 00 24. Vi faccio sentire anche una voce della manifestazione invece dei no mask. Ragazzi, ci sono anche quelli, no? Perché uno dice, non è che se uno pone delle questioni è un no mask o è un negazionista. No, quelli lì che sono andati in piazza sono, non fatemelo dire perché sennò mi becco le querele, però cioè, sentite un po' di voce. Non indosso le mascherine semplicemente perché penso che penso. Non proteggano dal Covid. Già penso è strano. Perché non ho i soldi per la multa. Soffro d'asma. Il Covid l'ho già avuto e sono un portatore sano. Sì. Vergognatevi. Se si dovesse ammalare, lei dice... Influenza come tutti, un antibiotico, antinfiammatorio, bel po' di grappa e la vedrai grappa. Che la mattina ti rizzi bene in piedi. Secondo me la grappa l'aveva già bevuta e abbondantemente forse. C'è anche incredibilmente Sara Cunialla, che è onorevole e che si è presentata con un casco, perché dice che la percentuale di rischio di prendere il Covid è la stessa che le caschi in testa un asteroide. Fa anche dell'ironia, del sarcasmo, Sara Cunialla. Allora, io mi sono attrezzata oggi, signori, perché il dato scientifico che abbiamo a disposizione è chiaro. La NASA oggi afferma che c'è la possibilità di essere colpiti dall'asteroide per lo 0,042% e quella di morire di Covid è dello 0,026%. Ah, ragazzi. E quindi oggi mi sono attrezzata. Onorevole della Repubblica Italiana. Signori, sono le 9:16 minuti, voi chiamateci, io intanto non ho dimenticato il tema con cui apro tutti i giorni la trasmissione e con cui voglio approfondire anche oggi con un ospite. È il tema dei pescatori di Mazara del Vallo, che da 41 giorni, io tengo questo conto tutti i giorni, da 41 giorni sono detenuti di fatto nelle mani della Libia del generale Haftar a Bengasi, e saluto un profondo conoscitore di quella situazione, giornalista di Avvenire, per tutte le sue inchieste è anche finito ed è sotto scorta, Nello Scavo. Buongiorno e ben ritrovato, Nello, grazie di essere qui. Buongiorno a voi, grazie. Allora, hai raccontato molto bene nei giorni scorsi come la situazione sia molto intricata. Intanto le accuse inizialmente sembravano quelle di aver pescato in una zona di mare che i libici considerano, peraltro su questo c'è molto da discutere, loro. E fin qui, che è un reato così grave se fosse questo, Nello Scavo? Ma nella legislazione libica sarebbe sì un reato piuttosto serio. Il problema è che non si capisce a quale legislazione gli uomini del generale Haftar fanno riferimento, a quale tribunale comminerà questa pena, visto che le autorità del generale non sono riconosciute a livello internazionale e neanche dal governo di Tripoli. E non sono note neanche esattamente le accuse. Noi abbiamo provato a fare delle ipotesi sulla base di varie fonti, perché ogni giorno l'accusa cambia in realtà. Sì. Si è cominciato dalla pesca fraudolenta in qualche modo, poi si è parlato di minacce alla sicurezza nazionale, perché con le loro barche chissà cosa potevano minacciare, mettere in pericolo sulle coste della Cirenaica. Infine si è arrivata al traffico internazionale di stupefacenti, un'accusa che è emersa curiosamente 2 settimane dopo l'arresto dei Sì, perché di colpo sono comparse delle foto dalla Libia di alcuni panetti di droga che secondo i libici sarebbero stati sequestrati nel peschereccio. Tu hai scritto, ma guardate, intanto sarebbe poco furbo, perché nel momento in cui ti si avvicina una motovedetta della Guardia Costiera Libica, semmai uno la droga, se ce l'ha, la butta in mare, proprio, no? Sì, è proprio così ed è curioso che si sia, tra l'altro il sequestro di questi pescherecci non è stata un'operazione fulminea, tanto che erano inizialmente 4 le barche italiane sequestrate, 2 sono state lasciate andare via, quindi i pescatori avrebbero avuto tutto il tempo di liberarsi perfino del pescato, perché anche di quello non c'è traccia. Cioè non si capisce bene quanto pesce avrebbero rubato. In realtà, come dicevi tu all'inizio, queste persone sono prigioniere di una guerra fatta su altri piani. Io preferisco parlare di ostaggio, perché è una cosa che andrà per le lunghe, e il generale Haftar sta giocando questa partita molto sporca, probabilmente per salvare il salvabile anche di se stesso. Eh sì, ostaggi sono la parola giusta, anche perché quando anche fosse un reato grave pescare in acque di un altro paese, è un danno economico sicuramente, ma a parte che qualcuno dice che i libici non sono dei gran pescatori, non è che si dedicano moltissimo alla pesca, ma comunque mettiamola da parte questa questione. Ma è possibile che da 41 giorni siano detenuti senza sentire le famiglie, se non sporadicamente qualche giorno fa, poi più niente, senza un avvocato, senza un'accusa precisa? Voglio dire, no, ci sono dei reati più gravi, e poi ci sono delle minime garanzie anche per una persona che viene detenuta. Già di per sé, appunto, l'enunciazione delle cose che tu facevi adesso dimostrano che questo processo non può avere una qualsiasi validità giuridica, neanche dentro al sistema giudiziario libico tradizionale, per come lo conosciamo, perché non è stata fornita nessuna garanzia minima, viene solo detto che vengono trattati bene. Peraltro il generale chiedeva la scarcerazione di 4 calciatori libici, condannati ciascuno a, mi pare, 30 anni di carcere a Catania per traffico di esseri umani. Ecco, questo l'abbiamo raccontato all'inizio, ma quella vicenda quanto viene perseguita ancora? Perché mi sembra che sia stata un po' abbandonata come pista, quasi un tentativo disperato, poi lasciato lì. C'è stata anche una manifestazione di piazza a Bengasi nei giorni scorsi per chiedere la liberazione di questi pescatori. Qualcuno, leggevo il Guardian proprio ieri, mette a paragone, diciamo, le 2 sponde del Mediterraneo, le famiglie che piangono in Sicilia e quelle di questi 4 calciatori che piangono in Libia. Io credo che sono tutte in fondo vittime di un altro tipo di conflitto. Il generale Haftar ha altri interessi in questo momento, ci sono grandissime difficoltà di negoziato. Tu prima domandavi giustamente, ma chi è che si sta occupando tecnicamente, anche giuridicamente, di loro? In realtà quasi nessuno, ma per una ragione anche tecnica. È difficile trovare un avvocato in Libia che possa andare a Bengasi a difendere questi i pescatori italiani, sì. Perché l'ambasciata italiana naturalmente si trova a Tripoli, può anche individuare degli avvocati di fiducia a Tripoli, ma non sarebbero i benvenuti a Bengasi, perché ricordiamo che c'è un conflitto tra le due aree della Libia. Ricordiamo che noi riconosciamo, come dire, il governo di Tripoli, quello di al-Sarraj, noi ci sono però paesi, la Francia su tutti e anche altri, che invece in qualche modo appoggiano Haftar, e quindi dobbiamo triangolare così. Si sta tentando una triangolazione che sarà molto faticosa, che naturalmente sposterà, diciamo, il piano negoziale anche su altre questioni come quella petrolifera, non solo quella petrolifera, ma naturalmente anche politico-militare e su altri fronti. E in qualche modo questo costringerà l'Italia o a dover ottenere in qualche misura un aiuto della Francia, un patronato della Francia per la gestione di questa, della crisi dei pescatori, e sappiamo che Italia e Francia si fronteggiano diplomaticamente e anche non troppo diplomaticamente in Libia su una serie di questioni petrolifere. Ci sono poi i grandi sponsor di Haftar che però si stanno tirando un po' indietro, in particolare Russia, Egitto, gli stessi Emirati, perché hanno scaricato il generale che aveva promesso la conquista di Tripoli fulminea oramai un anno e mezzo fa, e in realtà la guerra è andata abbastanza male per lui. Haftar, ricordiamolo, si è formato in Russia militarmente, ma poi è stato protetto negli Stati Uniti, di cui ha anche il passaporto, ha ancora casa a Langley, dove c'è il quartier generale della CIA, dove si trovano una serie di esuli che vengono controllati in qualche misura o condizionati dai servizi segreti americani. Probabilmente si tratterà di trattare anche una buona uscita per lui in vista di una stabilizzazione. Questi poveretti sono finiti in mezzo a questa partita. Infatti io sbuffo nello scavo, perché detta così io faccio questa conta quotidiana, dico siamo arrivati a 41 giorni. Fai benissimo perché non sempre il tema è presente sulla stampa italiana. No. Ma molto spesso si dice, e giustamente la Farnesina, che ha degli ottimi funzionari, lavora sotto traccia cercando di portare avanti le trattative, quindi è giusto anche che non venga pubblicizzato quello che stanno facendo, però quantomeno l'attenzione, come dire, quel ding che deve scattare nelle teste delle persone, di ricordiamoci che ci sono delle persone lì, che ci sono delle persone in mano, erano lì a lavorare e sono adesso a Bengasi in questo puzzle molto complicato da risolvere. Si genera un effetto perverso, per cui la Farnesina sta lavorando molto e anche molto bene, e questo è successo in tanti altri casi. Ricordiamo recentemente la liberazione dei due ostaggi italiani nel deserto del Sahara e altre vicende ancora in sospeso. Quindi la Farnesina lavora, questo bisogna riconoscerlo, con tutta una serie di difficoltà. Il problema naturalmente è che personaggi come il generale Haftar sanno negoziare anche sulla base delle reazioni dell'opinione pubblica, quindi un'opinione pubblica fortemente preoccupata come quella italiana di questo caso fa alzare il prezzo della liberazione di questi ostaggi. Opinione pubblica che invece se ne dimentica rende questi ostaggi politicamente meno esposti e quindi permetterebbe un negoziato più facile, però è davvero, diciamo, giocare sulla vita delle persone. È terribile. Però nello scavo noi ti ringraziamo, grazie, inviato di Avvenire, leggete su Avvenire quello che lui scrive tutti i giorni, quasi tutti i giorni, sul tema immigrazione, sul tema Libia. Per queste vicende, ripeto, nello scavo è anche sotto protezione e racconta sempre dei dettagli molto interessanti. Sono arrivate tantissime mail, tantissimi ascoltatori. Io non voglio deludere il padre che mi scrive, perché sarei deluso anch'io, che mi dice: ma guardate che i miei figli giocano due a pallavolo, una a calcio, mi sono perso WhatsApp comunque, e continuano ad allenarsi, e quello non è sport amatoriale. Caro ascoltatore, anche secondo me mio figlio sta per fare il campionato della Federazione Italiana Pallacanestro. Temo, così mi ha scritto Fiorenza Sarzanini, ma bisognerà vedere oggi il TPCM. Oggi c'è una riunione alle 3 e ci sarà un altro decreto, forse stasera, forse domani. E forse è considerato sport amatoriale, nel senso che viene considerato sport non amatoriale solo, che ne so, la Serie A, la Serie B, la Serie C di calcio, i massimi livelli. Tutto il resto, se è considerato sport amatoriale, vuol dire ciaone pallavolo, ciaone basket, ciaone calcio, ciaone tutto. Mi scrivono anche: perché non parlate della manifestazione dei bauli ieri in Piazza Duomo? Giusto, i lavoratori dello spettacolo, ne abbiamo parlato tante volte qui. I lavoratori dello spettacolo in Piazza del Duomo ieri hanno protestato e oggi Repubblica. Devo dire che i giornali si stanno un po' svegliando in ritardo. L'altro giorno il Quotidiano Nazionale intervistava Riccardo Muti. Oggi Repubblica, a pagina 2, intervista il direttore d'orchestra Antonio Pappano a dire: ragazzi, la musica, cioè non si può togliere la musica. Se mettete un tetto a 200 spettatori fisso, rigido, anche per teatri magari da 1000 posti, create un danno pazzesco. Nel senso che fate morire di fame decine di migliaia di famiglie che vivono del settore dello spettacolo. Create questa fame, questa morte civile ed economica di decine di migliaia di persone per un settore dove, dice il maestro Pappano, la gente entra, sta seduta, ferma, in silenzio, distanziata e con la mascherina dall'inizio alla fine dello spettacolo. Ora mi dite voi, tra questa situazione e 10 che vanno a mangiare, 10 amici che vanno a mangiare al ristorante, che quando arrivano al tavolo si tolgono la mascherina e ridono, uah, uah, uah, uah, e ridono così sputacchiando qua e là, quale delle due situazioni secondo voi è più di rischio? Siamo di fronte alla cialtroneria pura. Però non voglio con questo dire adesso si svegliano e dicono: ah, chiudiamo anche i ristoranti. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Non voglio che chiudano anche i ristoranti. Voglio che ragionino sul fatto che fare uno spettacolo teatrale a distanza, uno spettacolo musicale con le persone sedute che non sputacchiano, stanno ferme con la mascherina, è meno rischioso che andare a mangiare una pizza. È meno rischioso che andare a mangiare una pizza dal punto di vista del contagio. Poi su questi contagi bisognerebbe anche un po'... Sentite Zaia, ieri ha dato i dati e ha detto una percentuale interessante. Zaia. Ma il dato ancora più interessante è questo invece. Quanti sono i sintomatici sui positivi? Sono 225 su 5.832. Vuol dire che, fatto 100 i positivi, solo 3,86, quindi facciamo 4 sono sintomatici. Hanno un minimo di sintomi, non vuol dire che sono in ospedale. Il 3,86%. L'ascoltatore che mi dice: caro Milan, non è difficile da capire, tuo figlio non percepisce soldi giocando a basket, quindi è amatoriale. Ma infatti io l'ho capito, caro ascoltatore, e ho detto già ciaone al basket di Mattia. Rispondevo all'ascoltatore che mi dice: ah, guardi che mia figlia fa pallavolo, si allena con le precauzioni, e temo che sua figlia, caro ascoltatore, da domani o da dopodomani, quando entrerà in vigore il nuovo decreto, non potrà più allenarsi. E chi mi dice: i ragazzi vanno a scuola, hanno diritto anche di fare sport? Sì, sì, tutto ragionevole, tutto ragionevole. E aggiunge: però li ammassano in pullman, ed è qui che io ho lanciato l'appello: cari pendolari, chiamateci all'800240024. Com'è andata la vostra movida sui mezzi pubblici oggi? Movida non voluta, non richiesta, ma subita. Se l'avete subita, scrivetecelo o chiamateci. Ora arriva qui per un piccolo assembramento anche Maria Piera Ceci, pronta per il tema della scuola. Cara Maria Piera, buongiorno, aspetta che tolgo la mascherina, oh, eccomi qua. Ha tolto la mascherina, quindi la situazione si fa preoccupantissima. Allora dobbiamo andare un attimo in pubblicità e poi c'è Maria Piera Ceci. Uno, nessuno, 100 Milan. Barillari, due mostri portati in Parlamento dall'altro mostro più grosso, il gigantesco grillo Godzilla. Bravo Mila, grandioso, hai fatto sentire soltanto quelli, diciamo, un po' più goliardici, ridicoli, perché non li hai fatti sentire un po' tutti i commenti dei no mask di sabato, eh? Mamma mia, quanta ipocrisia.

il solito, chiedo quello che ci dice l'Europa, ci dice la Corte di Giustizia Europea, ce l'ha detto anche la nostra Cassazione e anche la Corte Costituzionale. Il sistema italiano, laddove prevede alcuni che entrano da concorso, altri che entrano da graduatorie per titoli, è la giusta risposta all'abuso del precariato che fa lo Stato italiano nei confronti di migliaia. Visto che ritengono precari per anni, che il concorso l'hanno fatto, può, insomma... Quindi bisognerebbe continuare a assumere quelli che hanno fatto il concorso, e così è stato fatto anche e quelli che sono precari da tot di anni, insomma, che sono graduatorie per titoli, quindi riaprire le graduatorie ad esaurimento o utilizzare queste graduatorie provinciali non solo per le supplenze, anche per le emissioni a ruolo sul 50% dei posti. Ma scusi, le sembra giusto che qualcuno però debba fare il concorso e qualcuno lo aggiri e entri per titoli? Non è ingiusto un trattamento? Il problema non è aggirare le norme, il problema è seguire le norme. È lo Stato italiano che aggira le norme sulla statistica. Sì, Pacifico dice precari. Anche lo Stato italiano che usa precari per anni aggira questo, ha ragione. Anche diciamo perché... che la soluzione finale è dice, visto che le aggirate voi Stato, allora a questo punto immettete anche il ruolo per titoli quelli che utilizzate erroneamente per anni in una fase di precariato. Aggiungiamo anche un'ulteriore ipocrisia nella nostra scuola, che i precari che non dovessero superare questo concorso per qualche ragione il giorno dopo sono di nuovo in cattedra. Esatto, c'è anche quindi questo. Abbiamo deciso che non possono insegnare, ma tanto insegnano perché perché ce n'è bisogno. Perché ce n'è bisogno, quindi o li buttiamo fuori. Marcello Pacifico, noi la dobbiamo salutare perché c'è il momento del traffico, così come Maria Pia Ceci. Ti dobbiamo salutare, ma ci ritroviamo lunedì e vedremo mercoledì questa manifestazione. Grazie, traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Se un ragazzo o un figlio gioca a pallavolo piuttosto che fa sport agonistici, cioè iscritti a federazioni olimpiche, allora credo che potrà continuare ad allenarsi e a fare attività agonistica. È quello. Tutto il resto amatoriale, partite di calcetto o attività sportive non agonistiche. Buongiorno, sono Ornella, vorrei porre questo quesito. Noi siamo in 6 amici che si incontrano ogni 15 giorni e siamo plurisettantenni per giocare a burracco. Possiamo giocare portando la mascherina per tutto il tempo? Grazie, ciao. Penso di sì, però... Io dico subito a Ornella no. Perché? Non si può. Sei arrabbiato, sei livoroso per il burraco. Non sono livoroso, Ornella, il burraco non è un'attività essenziale. Quindi lei, da cittadina responsabile, eviti il burraco. Rinunci, altrimenti in caso di contagio andrebbe a pesare sulle strutture sanitarie. Secondo me, invece, Ornella, rinunci. Siccome non fa parte di quelli che giocano a scopone scientifico al bar o a casa e si sa che lì volano alla fine delle mani, volano delle accuse. E con le accuse volano i virus. Forse burraco, secondo me Ornella sono più tranquille, giocano a burraco. No. Chiedi agli organi competenti, al comitato tecnico scientifico, che espressamente vieterà il burraco. Anzi, faccio questo invito al comitato tecnico scientifico. Ma sei cattivo, siccome blocca gli spettacoli, tu non ti devi vendicare sul burraco. Il burraco. Si può al limite la scala allora, 40, adesso... il gioco al quale siamo più abituati, ma in meno di 6. Leonardo, c'è questo giallo sull'amatoriale, agonistico, professionistico. Sì. Adesso vedremo. Effettivamente mi attacca questa speranza, cari ascoltatori, sperando che, essendo uno sport agonistico, quello che fa mio figlio non sia considerato amatoriale, ma agonistico, però non è professionistico. Ora vedremo il DPCM, quella roba lì che faranno l'ennesimo oggi. Dai. Io nel frattempo farei un ricorso al TAR preventivo, che quello non manca mai. Speriamo. Vai, Leo, tocca a te. Allora, dire ogni giorno che ci sono X nuovi contagiati senza dire quanti di loro sono asintomatici e quanti invece hanno bisogno di cura è come dire di un uomo che ha avuto 100 fidanzate, anche se magari con 90 di loro ci ha solo provato senza nemmeno riuscire a baciarle. Ed evidentemente è sbagliato qualificarle tutte come fidanzate. Con 100 donne ci ha provato, è venuto in contatto, ma solo 10 magari hanno avuto un rapporto intimo con lui. Con le altre ha fatto il brillante, le ha invitate a uscire, ha offerto da bere, ha provato a fare qualche battuta, si è avvicinato e ha sfiorato loro la mano, ma poi è andato in bianco. E se quest'uomo si presentasse al bar dicendo che ha avuto 100 fidanzate, al bar lo qualificherebbero come un cazzaro. Però se certi mezzi di informazione rispetto al virus si comportano nello stesso modo, enfatizzando solo o soprattutto i contagi, vengono comunque qualificate come fonti autorevoli, chissà perché. L'importante, a quanto pare, è dire ad alta voce ogni giorno quanti sono i nuovi positivi. Il lunedì, invece, quando si riportano i numeri della domenica e i positivi sono un po' meno, la voce del giornalista inevitabilmente si alza per ricordare che ci sono stati meno tamponi rispetto al giorno precedente. Come voler dire, italiani, la situazione è ancora grave, non rilassatevi e soprattutto non andate a fare la movida. Ecco, una cosa che abbiamo capito in questi mesi è che quello che una volta si chiamava struscio adesso è diventata movida. Lo struscio è una cosa più casereccia, di paese, si andava avanti e indietro per la via principale guardando le più carine che ovviamente non ti ricambiavano quasi mai dello sguardo. Lo struscio, nello struscio al massimo si beveva una birra, più spesso un chinotto o una spuma che adesso non si usa più. Ma dire che una delle cause principali dei nuovi contagi è lo struscio sembrerebbe poca cosa, perché nel termine struscio tutto sommato non c'è qualcosa di moralmente discutibile. Lo struscio fa parte dell'essenza stessa del genere umano, del popolo italiano, perché in fondo è dallo struscio che nascono i primi rapporti, i primi fidanzamenti, in fondo anche i figli, che sono comunque una cosa buona e da incentivare. Ecco, se un paese volesse aumentare la natalità dovrebbe incrementare lo struscio, ma la movida no. In fondo è la stessa cosa, ma il termine evidentemente movida sottintende qualcosa di più perverso e non adatto a uno Stato che nei momenti di crisi inevitabilmente tende a diventare Stato etico. Nel termine movida c'è allora sottinteso non la birra piccola, la spuma o il chinotto, ma lo sballo, il superalcolico, il ciupito, la droga e anche i rapporti sessuali non finalizzati alla creazione, ma semplicemente al godimento. Ecco, la differenza è questa. Se un ragazzo e una ragazza si conoscono e poi formano una famiglia, può essere benevolmente accaduto durante lo struscio. Se un ragazzo e una ragazza si conoscono, consumano uno o più rapporti sessuali, ma poi si lasciano, l'incontro è avvenuto durante la movida. In questa ansia moralizzatrice rientrano ovviamente anche gli spettacoli, sempre poco considerati. Poco importa se nel settore ci lavorano centinaia di migliaia di persone. Tanto a fargli show ci pensano già alcuni politici doc, come il governatore della Campania, De Luca. Sarà il prossimo un anno bellissimo, pieno di virtù e di struscio, sì, ma possibilmente entro mezzanotte finalizzato la creazione di famiglie stabili e durature. Per il resto c'è tempo, c'è tutta la vita che ci resta, piena di sani valori condivisi dai principali mezzi di informazione alla nostra bella Italia, paese di poeti, santi e moralizzatori. Negazionista. Guarda che tu hai fatto tutta la tua intro, è stata una intro da negazionista. Io, stamattina. Ma no, sì, ma, sì, ma che negazionista, ma quale negazionista, ma e come tutti i negazionisti dicevi negano. Non sono negazionista, ma no, è come quello classico. Ma figurati. Vabbè, signori, no, comunque il burraco secondo me è approvato, eh? Burraco assolutamente, non c'è niente di male. Cara Ornella, puoi giocare a burraco. Proibito. Telefoni a me, Ornella, io le dirò se è proibito oppure no. Proibito comunque. Perché Leonardo è così, siccome hanno tolto lo spettacolo a lui, ed è un errore, eccetera, allora lui vuole togliere a tutti gli altri chi il burraco, chi, no? Vabbè. È così. Va bene, dai, c'è la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan che se ne va e la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan è in arrivo dopo il giornale radio. State con noi. Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. 1, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Mila, io penso che se mettiamo te e De Luca al posto del comitato tecnico scientifico avremmo risolto tutti i problemi. Ma di che stiamo parlando? No, dai, no, su, no, a furor di popolo, andate voi manera, due. Manera. Mio figlio non potrà andare a fare il suo sport amatoriale. Ma chi se ne frega? Ecco. Ma chi se ne frega? Non ho capito cosa volete voi due. Il liberi tutti? Messaggio di una scuola. Cosa proporreste al potere? Siete i soliti italiani che criticano senza proporre soluzioni. Allora adesso ministro Bonetti, io grazie per essere qui in onda a aprire la seconda ora di Uno Nessuno Cento Mila. Lei ha anche Buongiorno. Una parente già nel governo, ministra. Ma guardi, io penso che sia necessario contemperare le esigenze da una parte del contenimento del virus, ma dall'altra anche di garantire le attività essenziali per vincere comunque la sfida della ripartenza. Sì, quindi ma scusi, bisogna, lo sport non bisogna... amatoriale, agonistico, dilettantistico. Ma guardi, ministro, io credo che sia necessario non lasciare indietro nessuno. Nei periodi più complicati l'importante è la presenza dello Stato e io credo che noi non lasceremo indietro nessuno. Ma i teatri, lei li riaprirebbe i teatri? Ma noi Bonetti. Siamo naturalmente favorevoli alle attività culturali che sono l'essenza anche del nostro paese, un paese che ha delle grandi tradizioni culturali. Ma... E quindi... No, avremo un occhio di riguardo anche per tutte le attività culturali, contemperando le esigenze della ripartenza con anche le esigenze di contenimento del virus. Noi ci stiamo adoperando in questo senso. Ma non è vero. E stiamo creando un'apposita task force per essere vicini agli amici artisti. Ma quale task così force? Tanto ci hanno dato da mangiare. In questi anni ha bisogno di soldi per mangiare gli amici. Naturalmente noi siamo vicini agli amici artisti, capiamo le loro esigenze e saremo loro vicini anche nei momenti più complicati, perché il nostro intento è non lasciare indietro. Va bene, nessuno. Ministro Bonetti, grazie. Ma questo di grazie che a lei, fa? Grazie a lei. Giovanni da Latina, buongiorno Giovanni. Giovanni. Buongiorno. Tra l'altro lei ha una spiegazione, ma io ho una novità, perché ho scritto adesso, mi ha aggiornato Fiorenza Sanzanini, dice che forse li salvano gli sport come dire dilettantistici a livello agonistico. Non si capisce nulla, nel senso che stanno discutendo, però Giovanni prego. Sì, ma guardi, io faccio l'avvocato, mi occupo di diritto sportivo e sono consulente parlamentare proprio sullo sport. Okay. L'intenzione è quella di salvare, tra virgolette, gli sport dilettantistici, cioè quegli sport che sono governati dalle federazioni, perché hanno dei protocolli, hanno dei Covid manager, quindi fino a che sarà possibile questi sport verranno tutelati. Questa è l'intenzione del ministro dello sport, lasciare la possibilità di fare questo tipo di sport e magari togliere lo sport, diciamo, di tipo amatoriale, ludico, la partita di calcetto, la partita di padel, non perché siano meno importanti, ma perché in una scala di priorità, quantomeno nello sport dilettantistico normato dalle federazioni, c'è un protocollo da seguire, ci sono i dirigenti sportivi. Sì, poi vedremo Giovanni, perché è tutto in discussione, ripeto, oggi alle 3. Questa è la linea del ministro dello sport Spadafora, risulta anche a me. C'è la linea forse più dura del ministro Speranza. Vedremo poi politicamente chi vincerà. Io ho la sensazione che comunque, se adesso salvano il livello di sport dilettantistico agonistico, poi magari tra 10 giorni aumentano i contagi, perché ve lo dico già, ci ha detto il professor Remuzzi, arriveremo a 20.000 nel giro di un mese, quindi ve lo diciamo prima. Ve lo diciamo prima, arriveremo a 20.000 contagi al giorno nel giro di un mese con questa progressione. È normale, state sereni, come direbbe Renzi a Letta. State sereni, lo sapete già adesso. Aumenteranno e allora magari faranno un nuovo DPCM, tanto ci si mette un attimo e una nuova stretta. Però io voglio salutare Furio Truzzi. Buongiorno e benvenuto Furio Truzzi. Ma grazie, eccoci, buongiorno a voi. Siamo a parlare degli utenti che prendono i trasporti tutti i giorni, presidente Assutenti, come va? Io ho detto all'inizio, come va la movida non richiesta da parte dei cittadini italiani ogni mattina? Ecco, questa movida mattutina direi che non va niente bene, nel senso che da un lato ci sono fenomeni di affollamento e dall'altro di diradamento, perché la gente incomincia a aver paura, perché è ovvio che non avendo le garanzie tipo freccia rossa sui treni pendolari c'è qualcuno che comincia a pensare, lo sta facendo, di ritornare al mezzo privato, alla macchina, con un documento enorme del trasporto pubblico. Sì, per sì, noi sì. È da mo che gliele cantiamo e gliele suoniamo, ma purtroppo non ci sentono tanto, quindi direi che sostanzialmente tre cose. Uno, che mettano veramente, rafforzino nelle stazioni i gate per garantire distanziamenti e salite sui treni di un certo tipo. Secondo, requisire la flotta turistica, o meglio, non vorrei apparire un sovietico, come dire, utilizzare l'inoperosità degli autobus turistici che sono fermi per le note ragioni per aumentare le disponibilità. E terzo, fare veramente una politica degli orari, perché se tutti devono arrivare alle 9 del mattino, il concentramento, certo, ci sarà sempre. Ecco, qui c'è, tra l'altro, ho trovato un po' dei commenti insopportabili. Come dice Leonardo Manera, siamo diventati un popolo di moralisti, pronti a puntare il dito. Molti che dicono, ma se tieni alla tua salute non salire su un treno che è un carro bestiame, no? Ma ho capito, ma ci sono persone che devono per forza andare a quell'ora a lavorare, se no vengono licenziate. Uno cosa deve fare? Adesso deve diventare una colpa anche dover prendere un treno al mattino? No, assolutamente no, né una colpa né un problema di insicurezza per se stessi, e quindi queste misure vanno adottate quanto prima. Perché al di là di ogni moralismo, poi quello che, siccome uno deve mangiare e andare a lavorare, si dovrà organizzare alternativamente in maniera assolutamente inidonea, e quindi bisogna che si sbrighino, altro che discutere comitati e sottocomitati eccetera. Le soluzioni ci sono operative, sono state introdotte anche in altri paesi, e ai nostri pendolari, a quelli che fanno girare l'Italia, va garantita la stessa sicurezza di chi viaggia per altri motivi, per diletto, per diporto. Sì. Quali sono le tratte più preoccupanti o quelle per le quali vi arrivano le segnalazioni più? Ma diciamo tristi. Che i nodi principali sono Roma-Milano, ovviamente, poi Bologna, Genova, Napoli, Torino, insomma le grandi città tra virgolette metropolitane, ecco, dove i temi si ripetono a livello di fotografia uno uguale all'altra, cioè a dire, si entra in stazione e non ci sono percorsi adeguatamente protetti, si arriva dove c'è il treno e sul treno uno lo vuol prendere, non lo vuol prendere, non si sa il numero come c'è per il freccia rossa, e quindi primo che passa lo si prende. Torno a ripetere, bisogna costruire situazioni alternative, non basta di raggiungere carrozze, perché per fare una carrozza ci vogliono 3 anni. E quindi l'iniziativa più immediata, come succede quando si fermano i treni, e Trenitalia lo sa bene, è di mettere delle carrozze bus, dei pullman sostitutivi. Quindi quando i piazzali delle stazioni saranno anche pieni di bus sostitutivi per rafforzare la mobilità dei pendolari, è sicuramente daremo una risposta di sicurezza a chi viaggia. No, ma io infatti vedevo anche mai tutte le televisioni, mostrano anche delle immagini, sono servizi inequivocabili. Nelle ore di punta il distanziamento tra le persone è una cosa ridicola da riuscire a mantenere, ridicola. E quelle persone sono, smettiamola di dire, sono colpevoli, sono vittime, perché sono evidentemente obbligate. Nessuno si mette in quella situazione con grande piacere, con grande gioia, attaccato l'uno all'altro. Quindi, no, assolutamente ragione. Del resto, come dire, la necessità è quella che ci spinge a non assicurare il distanziamento, perlomeno vedo che il comportamento adesso di mettersi tutti la mascherina sì, è aumentato notevolmente, perché io ricordo quello. Alcuni momenti qualche settimana fa che c'era da litigare, addirittura una povera signora a Genova è stata malmenata da una giovinastra perché ha chiesto la mascherina. È stata ripresa dicendogli di mettere la mascherina. Ecco. Ecco, adesso invece accadrebbe esattamente il contrario, ecco, sì. Se qualcuno sale senza mascherina viene malmenato. Comunque, almeno il comportamento virtuoso di mantenere la mascherina c'è. Furio Truzzi, facciamo così, ci sentiamo presto, teniamoci aggiornati, perché questa cosa del pendolarismo sicuramente la dobbiamo approfondire, dobbiamo andare al traffico per l'appunto, poi riprendiamo da Paolo da Milano, ascoltatore, e dagli ospiti. State con noi. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, Milan, mi stai diventando tignoso, non è che stai chiedendo un trasferimento alla Zanzara, eh? Perché io alle 18:30 faccio più fatica a sentirti. Milan, ci hai rotto veramente le palle tu e tuo figlio, ma portalo a fare a raccogliere le patate. Potrei, sai che ho... Vorrei anche portare Beniamino, ci viene secondo te a raccogliere le patate? Guarda, io faccio quotidianamente una lotta con mio figlio per fargli fare delle attività manuali, per sì. imparare a fare qualche cosa adesso con le mani. Dirgli, perché... Ma stai al telefonino tutto il tempo. No, secondo me manterranno aperte quelle attività. Sì, sì, sembrerebbe... sì, sì. No, no, per ora le manterranno aperte, questa pare la seconda linea. Però perché il caro Manera? Però è vero che stai diventando tignoso, quindi bisognerà forse rendere. Non è stato reso noto il nuovo palinsesto di Radio 24? No, ma rimango qui. Ma perché dovrei andare lì? Non si sa che sei stato spostato alle 18:30, dalle 9 alle 11 Mauro Meazza da solo. Ecco, e tu? Non è stato noto. E tu, ecco, come scrive l'ascoltatore, perché il caro Manera, come tanti, non si reinventa un lavoro? Potrebbe raccogliere le mele, c'è la vendemmia da fare. Ma io infatti seguirò il mio amico Giorgio Zanetti che ha fatto vari lavori, si è occupato di agricoltura, poi ha fatto il muratore, lavora in un ostello, quindi seguirò il suo esempio, come l'altro mio amico Gian Mauro Anchisi, che si è laureato a 60 anni, potrei laurearmi ospite, anch'io in giurisprudenza, terminare i miei esami. Pensate che avvocato, Manera. Avvocato Bonetti. Magistrato, mi piace indagare, inquisire, condannare, mi piace condannare le persone, molti anni di carcere. Paolo da Milano, eccoci, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì. Allora, intanto prima di dire quello che devo dire, un bel avete la faccia come il culo al ministro Bonetti, le parole sono scandalose e vergognose. Il ministro Bonetti è il nostro, eh? È il nostro ministro Bonetti. Non mi interessa, sono comunque parole che rimangono scandalose. Sì. Detto questo, vado avanti, torno serio. Sì, chiaramente. Sì. Io porto la testimonianza di mio fratello, che lui vive a Ostia, in provincia di Roma, cioè che è comune poi di Roma, prende la Roma Lido e da qualche giorno è stato obbligato ad andare in macchina, quindi quello che dicevate prima, proprio perché quando va nell'orario di punta o a parte saltano treni, quindi dilatano un po' quelli che sono gli orari, ma si trova certamente non a distanza di sicurezza, per carità, ha detto tutti con le mascherine, si viaggia proprio come caribestiano, quindi questa è la testimonianza. Tra l'altro mio fratello ha il figlio che fa calcetto e che ha la notizia della sua possibilità di non fare più calcetto, perché questa notizia comunque i ragazzi adolescenti ormai sentono su internet tutto e non è che gliela puoi nascondere, si è messo a piangere. No, in realtà se è agonistico, per ora forse rimarrà, se no. Ma ministro Bonetti, perché il ministro Bonetti è il nostro ministro, dica. No, ha sentito, Paolo le ha assegnato il premio Giachetti, insomma. Ma io ringrazio l'ascoltatore Paolo per le sue parole, che però trovo inappropriate. Io prima credo di essermi espresso in modo abbastanza chiaro mi sono espresso in modo abbastanza chiaro e quindi credo, ministro, che questi attacchi piuttosto gratuiti siano inadeguati e inappropriati a una persona come me che sta cercando di occuparsi delle problematiche di ogni cittadino italiano. Va bene, la ringraziamo, la ringraziamo. La nostra priorità, grazie a lei, grazie, grazie a lei, la ringrazio per allora, la possibilità di, che mi ha dato di chiarire. Vabbè, grazie. Premio Giachetti. Allora, noi adesso abbiamo da raccontare, devo dire, un'eccellenza italiana di cui si parla poco, l'ho scovata un po' qua e là. Saluto Antonio Cianci, che è amministratore delegato dell'azienda, che è produttrice di Airlight. Ci spiega tutto adesso. Cianci, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, si tratta, cari ascoltatori, di una vernice molto particolare, i dettagli ce li spiega, so che è antibatterica, antinquinamento, anche antivirale, adesso non è che titoleremmo, se fossimo dei giornali scandalistici, la vernice che ci salva dal Covid, no, non è così, non è così, però Cianci ci vuole spiegare di questa vernice, che, di che cosa si tratta esattamente? Allora, no, non salva dal Covid, però può aiutare tantissimo a migliorare il benessere all'interno degli spazi in cui passiamo maggior parte del nostro tempo, casa, uffici, scuole. È una pittura che contiene al suo interno un materiale innovativo, un semiconduttore che reagisce alla luce e genera ioni negativi. Questi ioni negativi interagiscono poi con sostanze presenti nell'aria come ossidi d'azoto oppure composti organici volatili come la formaldeide, ma permette anche di eliminare completamente batteri e virus. Noi tra parentesi abbiamo fatto test sullo human coronavirus, sull'H1N1, cioè il virus dell'influenza, o anche sull'enterovirus N71, e in circa un'ora, da 15 minuti a un'ora, elimina fino al 99,9% la presenza di questi microrganismi nocivi dalle pareti. Di pratica si autodisinfetta. Si autodisinfetta. No. Allora, la questione è questa, cari ascoltatori. Le Nazioni Unite, mi risulta Cianci, hanno identificato come questa vernice come una delle come dire, innovazioni tecnologiche che potrebbero servire nell'immediato futuro anche per una sostenibilità migliore, una qualità migliore dell'ambiente, una qualità dell'inquinamento, antinquinamento. Davvero avete questa certificazione dell'ONU? Sì, è stata per noi un riconoscimento enorme, è arrivato lo scorso anno, al mese di settembre, quando c'è stata le Nazioni Unite, quel grande evento sulla sostenibilità, e si unisce al fatto che la città di New York ci ha dato il primo premio proprio per le caratteristiche di sostenibilità. In pratica questa pittura permette di eliminare moltissimi degli inquinanti tossici presenti nell'aria, con percentuali altissime. Noi riusciamo ad eliminare gli ossidi di azoto, che sono i gas di scarico delle macchine, il famoso ossido d'azoto che poi porta alla chiusura del traffico nelle città, fino a percentuali sopra l'80%. In pratica, se noi mettessimo una macchina in un soggiorno col motore al minimo, dopo 2 ore già l'inquinamento prodotto sarebbe ridotto di 4/5. Ma questa vernice è già utilizzata? So che è già utilizzata in alcune città, utilizzata. Noi abbiamo iniziato a lavorare 5 anni fa, però abbiamo prima voluto lavorare sulla parte tecnica, sui brevetti, sulle certificazioni, su tutto quello che poteva consolidare la proprietà intellettuale. Dallo scorso anno è utilizzata, è commercializzata, la usano molte grandi aziende come Autogrill, Poste Italiane, ma anche tantissimi privati che la stanno iniziando ad utilizzare a casa, proprio perché va a migliorare il benessere abitativo. Di fatto trasforma le pareti della propria casa in un purificatore d'aria naturale. E tutto questo senza alcuna tossicità. Prego, Leo. Per quanto è attivo poi? Per quanto questa funzione che ha? Allora, la funzione è lifetime, nel senso che non c'è un consumo. Molte pitture che sono antibatteriche oppure antimuffa hanno al loro interno un biocida che viene poi rilasciato per essiccamento. Noi invece lavoriamo per energia solare, un po' come se fosse un pannello solare. Esatto, come ci ha spiegato, cioè reagisce alla luce del sole. Esatto, per cui noi garantiamo il prodotto 10 anni, e abbiamo dei casi in cui il prodotto è stato applicato per più di 10 anni in cui non si ha una diminuzione rilevabile dell'efficacia sia nei confronti dell'antiviralità e antibattericità che della riduzione dei gas di scarico. Ci chiedono anche l'ascoltatore se sia anche antimuffa. Allora sì, è antimuffa e ne previene la formazione in tutte quelle condizioni difficili dove le muffe hanno facilità di crescere. Il prodotto è anche completamente traspirante, quindi impedisce poi la creazione di quelle bolle d'acqua che vanno a poi creare quelle condizioni favorevoli per cui le muffe si sviluppano maggiormente. Però Cianci, se reagisce alla luce del sole, come si fa, non so, nei tunnel dove la luce è minore, è chiaro? Allora, in quel caso è sufficiente predisporre un impianto di illuminazione che invece distribuire la luce per terra, diciamo così, la rivolge sulla volta. Questo, tra parentesi, anche meglio dal punto di vista dell'efficienza energetica, perché io con un minore quantitativo di luce riesco a dare maggiore visibilità nei tunnel, in autostrada. In questo caso la volta viene colpita dalla luce e a questo punto si ha una efficacia come se ci trovassimo alla luce del sole. Insomma, una vernice meravigliosa. Io me ne voglio dare una mano addosso. Sì, infatti, guarda, tantissimi dicono ci pitturiamo il naso, altri hanno scritto proprio come Goldfinger, ci pitturiamo tutti e quindi sconfiggiamo il coronavirus così. Vedi, se fossimo in un giornale scandalistico titoleremmo dipingiamoci tutti e sconfiggiamo il coronavirus, così per fare dei click, per fare titolo, no? Cianci, si potrebbe fare per fare titolo. No, va bene, noi la ringraziamo. Insomma, ripeto, Antonio Cianci, amministratore delegato dell'azienda produttrice di Airlight. Mi interessava raccontare anche, come dire, un'eccellenza italiana, magari poco conosciuta, anzi sicuramente poco, io non la conoscevo. Leonardo, invece, non abbiamo chiesto dove si può reperire. Dove si può reperire? Non so, c'è ancora Cianci, il nostro Cianci. Sì, ci sono. Allora, il sito è www.airlight.com, cioè airlite.com, sì. Da lì noi distribuiamo in tutta Italia in 24 ore, stiamo cominciando a sviluppare la nostra rete di vendita, saremo presto in Leroy Merlin e in altri punti vendita qualificati, però adesso dal sito riusciamo a portarla nella casa di tutti. A parte Manera, che fa sempre così per poi ottenere, diciamo, delle partite gratuite. E qualche tanica gratuita. lui fa sempre, ogni giorno deve portare a casa qualcosa. Sa, lavora soprattutto nel mondo dello spettacolo, Cianci, questo è un momento un po' di difficoltà. Quindi è giusto sostenere, se no lo troviamo a fare la vendemmia, a fare dei lavori alternativi, e noi invece vogliamo preservargli lo stile di vita che è più consono a un ex ministro Bonetti. Al ministro, va bene, grazie Antonio Cianci. Caro Leonardo, qui è comparso Mauro Meazza. Ogni volta che compare, due dell'Inter cadono come nespole in autunno. Sai cosa mi perflime un po' di Mauro Meazza adesso, onestamente? Devo dirlo onestamente, Mauro, che io ascolto anche la tua trasmissione, non c'è nessuno che manda dei messaggi sgradevoli nei tuoi confronti. E quando una persona non ha qualcuno che lo odia, probabilmente nasconde qualcosa di losco, perché dietro un aspetto così benevolo verso tutti, in realtà ha dei loschi traffici. Oppure, quindi io mi convinco sempre di più. Oppure c'erano persone che mandavano dei messaggi, sono scomparse. Ne stanno ancora cercando i parenti proprio. Due hanno provato a mandare dei messaggi negativi, non li trovano più. Io vorrei personalmente indagare sulla vita di Mauro Meazza, anche nei dettagli più intimi, perché secondo me c'è qualcosa di da losco, scoprire. Di losco, vabbè, intanto andiamo a sentire la borsa. Uno, nessuno, 100 Milan. Io non ci credo che arriveremo a 20.000, ma se arriviamo a 20.000 sarà lockdown, tranquillo. Fantastico Leonardo, ha fatto proprio il politico, ha risposto a tutte le domande parlando per 20 minuti e alla fine non dicendo un cazzo, grandissimo. Ehi, ma perché questa aggressività verso il ministro Bonetti? Ma io non ho alcuna aggressività, io stesso mi chiamo Bonetti, quindi mi dispiace che siano confusi i ruoli e le competenze. Anzi, io mi riconosco completamente nell'attività di contrasto che stiamo operando in questo momento verso i problemi emergenti, ma naturalmente non trascurando le problematiche che eventualmente potrebbero determinare il riorientamento delle linee di tendenze in atto con criteri non dirigistici, fattualizzando e concretizzando. No, scusa, abbiamo fatto, è una cosa che non ho mai fatto in vita mia, sfumare un ministro, ma perché ministro, scusi. No, perché non è venuto istintivo, abbiamo un po' sfumato nel finale perché mi sembrava un sottofondo musicale più interessante della sua risposta. Ci scusi, ci perdoni questo giudizio molto. Io sto cercando di dare risposte chiare, privilegiando il bisogno emergente e il superamento di ogni ostacolo e di ogni resistenza passiva. D'altra parte, senza pregiudicare l'attuale livello della Vabbè. Delle risposte. Grazie. Sì, è andata un attimo via la comunicazione, ma abbiamo colto perfettamente il senso della risposta. E quindi andrei, la ringrazio, ministro Bonetti. Andrei da Omar da Bergamo. Buongiorno, Omar. Buongiorno. Buongiorno, Milan. Eccoci. Mi hai detto di ritelefonarti quando prendevo la cassa. E allora l'hai presa? Sì, giugno ho preso. Oh, cacchio, giugno però. No, scusa se... Vabbè, buona notizia. Tu sei guidi gli autobus, mi ricordo. Sì, buona notizia. Hai detto che avevi dovuto mettere insomma un po' di soldi che avevi da parte. Sì. Bene. Un piccolo speraglio. Giugno ti è arrivato. Sì. Giugno, ragazzi. Cominciano adesso a capire che il trasporto pubblico è il problema del contagio in Italia. Perché? Dopo mesi. Da te come va? Da noi alla mattina scendono tutti appollaiati su un pullman, ecco. A scuola. Cioè tutti attaccati. Almeno tengono la mascherina. Questa è una cosa che mi fa un po' arrabbiare. Ragazzi, io vi vedo fuori da scuola quando vado a prendere i miei figli. Cioè non avete la mascherina, proprio ve lo dico, non va tenuta penzolante dalle orecchie, giù, invece appena sti ragazzi esuberanti, appena escono, via la mascherina e limonano alla grande, e va bene. Omar, cosa fanno? Come si comportano? Ma guarda, io lavoro in prevalentemente sul settore turistico. E noi abbiamo la libertà di caricare al 100%. Sì. Quindi tutti si comportano bene, mantengono la mascherina, gli fai il protocollo, provi la febbre, è tutto regolare. E invece quando di giorno che vedi questi ragazzi che scendono a scuola, purtroppo li vedi tu un po' con la mascherina, un po' senza mascherina, è un casino. Comunque Omar, tienici aggiornato con la tua cassa integrazione. Giugno, adesso manca luglio, agosto, settembre, dai che ce la facciamo, e spero che arrivino anche le mensilità che ti spettano, come spettano a tutti gli italiani. Grazie Omar. Daniele da Lodi, buongiorno Daniele. Buongiorno Milan e buongiorno Maniera, e complimenti per la trasmissione. Volevo tornare un attimino su un discorso, spero non monotono, che riguardava il calcio dilettantistico soprattutto, perché sembra che ci sia un po' di confusione. Adesso sul nuovo DPCM verrebbe negato la classica partitella di calcetto. Sì, quella è abbastanza chiaro che verrà, sì, cancellata. Ciò che unisce calcetto, calcio dilettantistico e calcio professionistico è il contatto, che è uno sport da contatto. Sì. Quindi se noi notiamo che il calcio professionistico viene controllato, super controllato con tamponi, ma al di là di tutto non riescono nemmeno lì ad essere pronti nel fermare a volte le squadre, vediamo che ci sono molti casi positivi. Io vedo che il calcio dilettantistico copre migliaia di persone, tante squadre. Sì. Dove sul campo ci sono bambini dai 6 anni ai 35 anni ad allenarsi tutti i giorni, dove è solo necessaria un'autocertificazione del genitore dove dice che il proprio figlio è in uno stato di salute. Sì, ma quello è lo sport amatoriale e quello in teoria verrà bloccato, no. Insomma, cioè non agonistico, quello che devi fare la visita agonistica, no? No, questo questo è calcio agonistico, il dilettantistico sarebbe calcio agonistico, ci sono i campionati di promozione, prima categoria, seconda categoria. Sì, attenzione, ma allora devono fare una visita agonistica quei campionati lì. Se sì, ma si fa una visita agonistica a inizio anno con un elettrocardiogramma. Certo, ma... allora se ho capito il discrimine è che ci saranno le società che hanno i protocolli, come le società di mio figlio, immagino quelle, cioè quelle con i protocolli per cui gli istruttori, gli allenatori fanno i tamponi, eccetera. Laddove ci sono dei protocolli, questo forse verrà salvato perché è sport agonistico. Quello amatoriale, amatoriale no. Quello amatoriale di calcetto proprio se lo scordi già. Tu nel dilettantistico non è fatto obbligo il tampone ogni tot giorni? No, certo. No, certo, ci sono no. No, è chiaro, non è che mio figlio fa il tampone per andare a allenarsi. No, certo, però, nemmeno il mio 10 anni. Però c'è il controllo solito come a scuola, la febbre, non la febbre, i sintomi, la tosse, il raffreddore, quelle robe lì che ci sono anche per andare a scuola, uno non fa il tampone, comunque, ci sono i protocolli. Certo. Però ho visto molte squadre già qui nelle zone che sono state fermate perché hanno trovato delle persone positive. Chiaro. Comunque adesso sì. Se un bambino, per esempio, io faccio riferimento alla squadra dove gioca mio figlio, se un bambino ha un minimo di raffreddore comunque sta a casa. Si applicano le regole che si applicano con la scuola, dai, le stesse. Cioè, sì, di fatto è quello. E quindi io mi sto attrezzando tra l'altro per fare dei tamponi fatti in casa. Sì. Cioè col cotton fioc un po' più lungo, poi sì. lo metto nel naso e nella gola, poi guardo un po' e valuto a occhio. Sì. sei un cialtrone. Il tampone a occhio. È quello proprio immediato. c'è quello immediato. E poi c'è il tampone a occhio. Ma cosa cacchio vedi a occhio? Funziona. Spiego perché funziona. Perché quando tu hai un po' di raffreddore, c'è qualche secrezione magari mamma un po' più scura. Schifo, quindi se il tampone a occhio ti fa vedere che è un po' più scuro, io lo faccio dire a casa. Queste cose. Quindi tu fai il tampone e poi qualcuno propone i tamponi Bellugi. Un ascoltatore ci propone i tamponi Bellugi. Allora, esatto. Io per adesso potrei proporre la Bellugi. Intanto io faccio il tampone a occhio. Il tampone a occhio. E quindi tu tiri fuori, guardi e poi dici stai a casa ogni tanto. No, pure puoi andare. Se è un po' più scuro, il mio tampone a occhio dice che è meglio stare a casa. Bello a causa delle secrezioni marroncine che possono essere. Ma via! Ma io non lo so. Ma vai anche avanti nei dettagli in questa stupidata che ti è venuta. Ma scusa, sto parlando di niente di pruriginoso, niente di sgradevole. Ma il ministro Bonetti come giudicherebbe questi tamponi cosa posso dire? Che ogni criterio metodologico estrinseca è riorientamento delle linee di tendenza in atto, quindi non posso che astenermi per il momento da valutare, recuperando e anzi rivalutando in un ambito territoriale omogeneo. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma noi, per chiudere questa puntata, inizio la frase con un ma, perché siamo in controtendenza. L'Italia rischia di bloccarsi, l'Italia rischia di fermarsi e invece noi proponiamo i nostri viaggi della Vagone Tour International con il nostro mitico Francesco Vagone. Buongiorno! Allora, buongiorno, approfittiamo di questo momento per spostarci liberamente nella nostra bella penisola prima che un nuovo lockdown arrivi, magari a causa del coronavirus. Di che? Cari amici del coronavirus, io sono Francesco Facone, titolare della Facone Tour International, l'agenzia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Allora, sono qui per suggerirvi qualche destinazione imperdibile, per esempio Beronzi Superiore. Ah, una casa. Sì. Una graziosa località dove d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo, quindi è da visitare per questo clima anomalo. A Beronzi Superiore c'è spesso anche la nebbia, ma non è nebbia vera. La fa il sindaco con la macchina del fumo, perché qualche piccolo tamponamento almeno è un diversivo a Beronzi Superiore. È un piccolo gioiello del nostro paese, ma inspiegabilmente non è stato ancora invasa dal turismo di massa. Per la verità, una volta Beronzi si è fermato un celebre fotografo, ma poi non ha trovato niente da fotografare ed è subito ripartito. Neanche un tramonto, un muro colorato, una bella brioche, niente. Ma a Beronzi Superiore gusterete una vacanza piacevole, come quando ti tocchi la tasca e scopri che ti hanno rubato il portafoglio. E allora perché non cogliere questa opportunità? Allora veniamo subito ai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori di Fagone Tour. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione potrà approfittare della esclusiva promozione Si sta come sugli alberi a Beronzi. Di cosa si tratta? È una simpatica gara da fare con gli amici, naturalmente pochi perché per il coronavirus non si possono fare assemblamenti. Allora, in cosa consiste questa promozione? Bisogna salire su un albero altissimo, rimanere in equilibrio senza attaccarsi, gli altri tirano una raffica di castagne e chi resiste senza rompersi nessun arto ha subito 3 euro omaggio da spendere negli esercizi locali, una simpatica gara di tiro con la castagna. Ma ora è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi Superiore. Vediamo. La prima attrazione è Osvaldo, l'uomo con le orecchie grandissime, che più invecchia e più diventano grandi. Osvaldo indossa solo maglioni aperti sul davanti con lo scollo a V, perché gli altri dalla testa non passano. No. Una volta Osvaldo a carnevale si è travestito da pirata e come orecchini ha usato 2 hula hoop. La tipica cotoletta gigante di Beronzi si chiama orecchia di Osvaldo ed è un po' più grande di quella originale che si chiama orecchio d'elefante. Quando Osvaldo dice sono tutti orecchi, tutti ridono, anche se lui non voleva fare una battuta. Se a Osvaldo viene l'otite deve intervenire la protezione civile. Se al mare gli entra un po' d'acqua nelle orecchie si ritrae la marea e non c'è più spiaggia. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono innumerevoli, per esempio il campione di salto con l'asta che intanto che salta fa delle esperte e si aggiudica anche dei quattri. Oppure il pittore incompreso che dipinge sui muri e poi viene picchiato dai proprietari delle case. O il mago sensibile che nel numero in cui taglia la donna in 3 parti non riesce mai a ricomporla perché sviene per l'impressione e ha già avuto 72 assistenti. Insomma, le sorprese a Beronzi Superiore non finiscono mai. E allora prenotate subito la vostra vacanza con Vagone Tour International, the best agency tour in the world. Ecco. Vabbè. Io guardi, l'ho lasciata parlare perché è una roba abbastanza incredibile. Comunque la ringraziamo, caro Francesco Vagone. Io non lo so se c'è ancora il ministro Bonetti con noi, perché magari ancora una domanda finale. Ministro, sto seguendo con attenzione la sua trasmissione. La ringrazio anzi per la possibilità di partecipare e di rispondere alle domande che mi vengono puntualmente poste, ecco, perché guardi, il ruolo di noi politici è rispondere in modo assolutamente alle domande, ecco, a tutte le domande che ci vengono poste, a in modo assolutamente esaustivo. Ministro, mi scusi, Bonetti, non mi veniva il termine, esaustivo, mi dica. Va bene, ministro, a questo proposito, siccome oggi alle 3 c'è questa riunione, insomma, ancora per definire tutti i contorni e i dettagli di questo provvedimento, ecco esattamente cosa succederà, per esempio, per i locali? Cosa succederà, ministro? Ci può dare delle anticipazioni? Ma non intendiamo lasciare indietro nessuno, posto che il quadro normativo persegue la verifica critica degli obiettivi istituzionali e, mi permetta, anche l'individuazione dei fini qualificanti. Questo naturalmente in una visione organica e ricondotta a unità. Vabbè. Sì, però allora, per dire, ministro, i locali, cosa succederà ai locali da domani, bar, ristoranti? Beh, credo che quel settore sia fondamentale per la nostra economia e quindi io credo che l'utenza potenziale di quei locali presuppone... Niente. Vabbè, un'ultima cosa, scusi, ministro, perché è andata un attimo via la comunicazione, un'ultima cosa sullo sport. Allora, ha capito se lo sport, anche il figlio di Manera, potrà fare calcio da domani o basket? Siamo in chiusura proprio, ministro. Ma il modello di sviluppo porta avanti sicuramente l'attenzione verso ogni tipo di sport. Naturalmente dobbiamo immaginare un ribaltamento. Vabbè. Chi vivrà vedrà. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it